America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, una notizia ha scosso ieri i mercati non solo americani ma internazionali. Standard & Poor's, l'agenzia per la valutazione del credito, ha deciso di mettere in allarme l'outlook sul debito pubblico americano, facendolo passare a negativo da stabile, una notizia che ha ripercussioni direi molto più ampie di quelle essenzialmente americane. Sentiamo. Now, Standard & Poor's said that they have revised their outlook for the United States to negative from stable. Standard & Poor's sostanzialmente dà due indicazioni. Il disavanzo pubblico americano ha raggiunto livelli addirittura dell'11% sul prodotto interno lordo, potrebbe anche aggiustarsi su livelli più bassi, ma non scenderà nei tempi previsti ai livelli del 3% auspicati dall'amministrazione. Il problema, indica l'agenzia, è politico. A Washington non ci si metterà d'accordo. Il rischio che questo accada è molto elevato. Per ora restiamo in posizione di attesa. Il triplo A sul debito pubblico americano resta, ma se per caso non ci sarà l'accordo, l'agenzia deciderà che l'accordo raggiunto non sarà sufficiente, ebbene l'outlook sul debito americano andrà a negativo da stabile. Questo significa molto probabilmente una riduzione dal triplo A magari a un 2A più, che sarebbe una svolta storica. Perché? Beh, perché gli Stati Uniti sono da sempre l'ancora centrale, il punto di riferimento centrale per la finanza globale, questo per dimensioni naturalmente. È un problema solo americano? No, non è un problema solo americano, perché bastava vedere le reazioni di tutti i mercati a livello mondiale. E perché questo? Ma semplicemente perché se improvvisamente al prossimo appuntamento la minaccia di Standard & Poor's si tradurrà in azione, e beh, verrà a mancare l'ancora su cui appoggiato a cascata il sistema per la valutazione dei rischi internazionali, con tutte le immaginabili ricadute del caso. Ecco la campanella di Wall Street, un po' che non la sentivamo, però ieri l'indice Dow Jones ha perso l'1,14%, ha chiuso a 12.201, restiamo pur sempre al di sopra di quota 12.000, Nasdaq meno 1,06%, S&P 500, S&P 500 meno 1,1%, i tre indici a un certo punto però sono arrivati a perdere fino al 2% nel corso della seduta. Questa manifestazione di sfiducia nei confronti degli Stati Uniti ha colpito. Ne parliamo ai microfoni di America 24 con Lorenzo Binismaghi, membro del Consiglio Esecutivo della Banca Centrale Europea e di passaggio a New York e reduce dagli incontri del Fondo Monetario Internazionale. Buongiorno. Intanto, come valuta questa decisione di Standard & Poor's di mettere in guardia gli Stati Uniti d'America su un possibile declassamento? I disavanzi pubblici vanno ridotti rapidamente, se no il peso sul debito diventa insostenibile rapidamente. Questo attualmente ha un impatto sul paese che è al centro del sistema finanziario internazionale, dunque poi è caduta su tutti gli altri. Per l'Europa è importante accelerare questo processo. Ecco, il governo americano ha criticato questa decisione di Standard & Poor's, l'ha giudicata affrettata. Qual è la sua impressione? Beh, è una decisione autonoma fatta da Standard & Poor's. Le agenzie di rating sono state criticate in passato per essere state troppo accondiscendenti, forse agiscono in modo forse prematuro, però seguono anche le loro metodologie. In questo caso credo che è un segnale importante e richiede una risposta delle autorità monetarie e finanziarie americane. I mercati si sono agitati parecchio, hanno già reagito a questa decisione. Secondo lei hanno peccato di eccesso? Questo è un avvertimento. I mercati ora si metteranno a guardare le autorità americane, capire se c'è l'intenzione di raggiungere un accordo tra congresso e amministrazione per uscire da questa impasse e trovare un accordo sul disavanzo americano e su come ridurlo, anche per rispettare il limite, il tetto al debito che c'è nella Costituzione americana. Quali sono le prospettive che in America si va avanti con la crescita e si raggiunga allo stesso tempo un accordo per migliorare il disavanzo pubblico? Ma sicuramente la ripresa in corso negli Stati Uniti si sta consolidando. Questo è il momento per muovere le politiche da essere molto espansive ad essere gradualmente più restrittive. Questo riguarda sia la politica fiscale che la politica monetaria. se uno ritarda troppo questo cambiamento, poi i problemi si accumulano, c'è il rischio di ricreare nuovi squilibri che poi il mercato penalizza. Bene, veniamo alle due parti in causa. Barack Obama. Barack Obama ha proposto dei tagli. Sono sufficienti? Ma dipende un po' dalle valutazioni che uno fa. Il rischio è che i tagli non siano sufficienti e bisogna anche procedere a degli aumenti di imposte. Questo, su questo punto forse c'è più difficoltà a trovare un accordo con l'opposizione repubblicana, che sicuramente è opposta a un aumento di tassazione. Ecco, sul fronte tasse naturalmente i repubblicani resistono perché dicono che un aumento delle tasse finirebbe per strozzare la ripresa sul nascere. Lei è d'accordo? Questo indubbiamente è vero. D'altra parte, se non si aumentano le tasse bisogna ridurre le spese, bisogna individuare quei settori dove è fattibile ridurre le spese. Tagliare ulteriormente le spese rischia di non essere sufficiente. Facciamo un passo indietro a prima di questa notizia, cioè all'atmosfera che ha trovato il Fondo Monetario Internazionale. Beh, un'atmosfera che nel complesso è positiva perché è trainata dalla crescita dei paesi emergenti che è importante, traina il resto del mondo, però crea qualche elemento di preoccupazione perché è accompagnata da inflazione che deve essere portata sotto controllo e dunque c'è questa richiesta di politiche anche più restrittive nei paesi emergenti. Nei paesi invece avanzati la crescita è ripresa, ma ci sono questi squilibri soprattutto sulle finanze pubbliche sia in Europa che negli Stati Uniti, dunque le politiche economiche non possono aspettare che gli squilibri si riducano da soli, si deve procedere con delle decisioni coraggiose. Il G20 ha dato delle indicazioni su dei parametri, secondo lei sono credibili? Ma alla fine la responsabilità è dei singoli paesi, il G20 dà degli orientamenti, dà delle indicazioni, ma alla fine la responsabilità è dei singoli paesi. Ecco, anche l'Europa si trova un po' nell'occhio del ciclone, si è parlato di Grecia in difficoltà, ecco, cosa dovrebbe fare l'Europa alla luce di questi sviluppi? Ma in questo momento l'Europa deve rassicurare i mercati che le finanze pubbliche sono in ordine, che i paesi che stanno attraversando le difficoltà verranno aiutati a mettere in atto quelle politiche necessarie per ridurre i disavanzi, che non ci saranno ristrutturazioni dei debiti perché l'Europa è un'area avanzata e non pagare i propri debiti rischia di trascinare l'Europa in una situazione di non credibilità nei confronti dei mercati finanziari internazionali e al contempo fare pressione sui paesi che hanno dei disavanzi di continuare l'azione di risanamento. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, i texani Explosions in the Sky, famosi per il loro post-rock strumentale, hanno distribuito ieri il loro sesto album, Take Care, Take Care, Take Care, che in inglese sarebbe come dire stammi bene, ti saluto, arrivederci. E da questo nuovo album degli Explosions in the Sky vi faccio ascoltare Let Me Back In. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.